Ciao a tutte e tutti, buon ritorno a Uru, la trasmissione che parla di musica africana e diamo anche qualche notizia. Questa è la 37esima puntata, quindi abbiamo passato l'anno di trasmissione. Vi ricordiamo, prima di iniziare, i nostri social, il sito dove ascoltare la diretta o scaricare i podcast delle trasmissioni passate, che è wombat.noblogs.org, il profilo Twitter della radio, che è twitter.com/radiowombatfi, la mail per comunicare con noi, per darci idee e così via, è posta wombat@insiberia.net. Vi ricordiamo che anche Uru, questa trasmissione, ha il proprio profilo Twitter dove riportiamo cosa faremo nelle trasmissioni, podcast, eccetera, ma anche qualche notizia dall'Africa che ci sembra importante ridare, ritrasmettere, ed è uru-rw di Radio Wombat. Sì, buonasera, stasera 37esima puntata appunto dedicata alla musica del Senegal. La musica del Senegal, che è basata sull'umbalas, cioè una fusione di musica e danze popolari, come il jazz, il soul e il rock, mescolato con la musica tradizionale del Senegal, in particolare, che è basata in particolare su due strumenti, cioè la cora e il balafon, e sulle percussioni. Il sabar, che è il tamburo tradizionale del Senegal, la cora, che è lo strumento a corda e che ha la particolarità di essere suonato in particolar modo dai griot, e il balafon, che è una sorta di silofono in legno, solitamente con un numero di tasti che va dai 16 ai 27, solitamente sulla ventina, roba di questo genere. E ricordiamo anche che il tamburo tradizionale del Senegal viene generalmente suonato con una mano e un bastone, e precedentemente, fino a oramai diversi anni fa, era usato per comunicare tra villaggio e villaggio, tanto che i diversi ritmi corrispondono a frasi e possono essere ascoltati anche per oltre 15-20 chilometri. E come detto precedentemente, ci sono tre strumenti tradizionali in particolare, cioè questo tamburo, questo sabar, questa sorta di arpa a 21 corde, la cora, e il balafon, che è una sorta di silofono. Ma nello stesso momento c'è un'altra particolarità nella musica, o meglio nei suoni senegalesi, è quella data dai griot, questa tradizione di, diciamo, cantastorie, ecco, che vanno di villaggio in villaggio accompagnandosi in particolar modo dalla cora, e che ripercorrono storie passate, momenti di socialità e via dicendo. E questa è la musica, diciamo, tradizionale. Su questa musica tradizionale si è innestata appunto questa fusione di musica, questo umbalas, che è una fusione tra musica tradizionale, jazz, soul e così via. E la musica pop, diciamo così, senegalese, la musica moderna, tra virgolette, senegalese, può essere fatta risalire agli anni 60, quando i nightclub ospitavano gruppi di ballo, le cosiddette orchestre, mentre nel sud del Senegal, in Casamance, che ha una forte minoranza mandinga, ha iniziato a produrre maestri di cora alla fine degli anni 50. E proprio a proposito della Casamance, parliamo di Ture Kunda, che è il gruppo più conosciuto, il gruppo più caratteristico della Casamance. Ture Kunda è una band senegalese, appunto, della Casamance, che è nota per una certa versatilità musicale e soprattutto per un attivismo politico molto, molto marcato. È una carriera iniziata oramai tanto tempo fa, all'inizio degli anni 80, e con registrazioni dei loro album, dei loro CD, in oltre sei lingue, e hanno avuto un notevole successo in Senegal in particolare, ma chiaramente anche nel resto dell'Africa. E dicevamo del loro attivismo politico, sono attivi in particolar modo a difendere, diciamo, i diritti per bambini e i senza tetto. Sono appunto la band della Casamance, e in particolare appunto all'interno della Casamance è Ziguinchor, Shore, che è il paese, la città principale della Casamance. Sono Ismail e Sissou Tidiane Touré, che furono introdotti appunto alla musica dal fratello maggiore Amadou, cantante e musicista anche lui, e cantano in soninché, wolof, fula, mandingo, dioloa e creolo portoghese, quindi riflettono la miscela multilingue della popolazione della Casamance. Ricordiamo che la Casamance confina da una parte con Gambia, dall'altra parte la Guinea, e quindi appunto per questo il creolo portoghese. E l'idea primaria dei Touré Koundé era di mescolare la tradizione africana e il suono appunto di strumenti come la cora o il balafon, per creare qualcosa di nuovo, diciamo, fosse al passo dei tempi e che nello stesso momento non rinunciasse alle proprie radici culturali. Facciamo ascoltare le Touré Koundé Amadou Tilo, che è un pezzo che è il titolo anche della title track, che dà il titolo anche è il titolo dell'LP, Amadou Tilo Touré Koundé. Thank you. Yamun, hai ya ya. E questo era Turekunda. Una notizia adesso, una decina di giorni fa il governo israeliano ha deciso di chiudere Olò, un centro di accoglienza situato nel deserto del Negev, dove moltissimi richiedenti asilo sono stati deportati negli ultimi anni. Misrad Apnin e Gliad Erdan, rispettivamente ministro per gli interni e il primo e il ministro per la sicurezza, pubblica sicurezza, scusate, il secondo, vorrebbero chiudere il centro entro marzo 2018. Da quel momento in poi tutti i richiedenti asilo che si trovano in territorio israeliano dovranno scegliere tra una detenzione a tempo indeterminato o la deportazione in un paese africano, con o senza il consenso dell'interessato. Attualmente sono presenti oltre 27.000 eritrei e oltre 7.000 sudanesi in Israele. Deportazioni soprattutto di eritrei e sudanesi sono già state effettuate in passato. Le persone in questione, appunto, possono scegliere tra una detenzione a tempo indeterminato oppure accettare di essere trasferiti. Recentemente la Suprema Corte dello Stato ha reso legittimo il trasferimento dei rifugiati in un paese terzo anche senza il loro consenso. Una associazione con sede nella capitale del paese ha spiegato: siamo in stato di allerta, vedremo cosa succederà effettivamente, ma sta di fatto che i provvedimenti che il governo intende attuare sono immorali, nonché in violazione alle leggi israeliane e internazionali. La parola d'ordine della politica israeliana è la seguente: detenzione o deportazione. Moltissimi richiedenti asilo sono in preda al panico. Non siamo infiltrati, dichiarano. Cerchiamo solo di vivere in pace e in tranquillità, ma sono inascoltati. A questo proposito, il primo ministro Netanyahu, in un comunicato di pochi giorni fa, ha sottolineato: la politica nei confronti degli infiltrati, perché così vengono chiamati i migranti, infiltrati, è giunta ormai alla terza fase, che può essere descritta come aumentare gli allontanamenti. Questo è reso possibile grazie a un accordo internazionale che ho ottenuto e che consiste nell'allontanamento dei restanti 40.000 infiltrati senza il loro consenso. Non ha specificato in quali paesi, ma visto che da dicembre 2013 a giugno 2017 sono già stati trasferiti, tra virgolette, oltre 4.000 persone in Uganda o in Ruanda tra senegalesi ed eritrei. Come firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951, Israele ha l'obbligo di proteggere i rifugiati e tutte le persone che necessitano protezione internazionale, ha detto l'alto commissario dell'ONU per la protezione. Dal 2009 ad oggi Israele ha riconosciuto soltanto a 8 eritrei e a 2 sudanesi lo status di rifugiato. È stato concesso il permesso per motivi umanitari ad altri 200 sudanesi provenienti dal Darfur durante gli anni della guerra che infuriava. Sono anni che il governo di Tel Aviv rende difficile la vita ai profughi con tutta una serie di leggi restrittive, come le detenzioni a Olò, il centro che vogliono chiudere, arresti, limitazione di movimento, accesso ridotto all'istruzione e al mercato del lavoro. Da anni, e per questo diamo anche questa notizia, si parla di accordi mai resi pubblici tra Uganda, Ruanda e Israele circa la vendita di armi, training militari e altre facilitazioni in cambio di rifugiati eritrei e sudanesi. Nessuna delle tre parti ha mai voluto dire di sì e parlare apertamente di questo. cioè di rifugiati in cambio di armi. Le armi israeliane, anche se sono di seconda mano, fanno gola a tanti. Molti stati africani sono interessati al loro acquisto, anche se il prezzo è elevato. Naturalmente è più importante avere arsenali potenti che granai pieni per dare da mangiare alle persone. E ricordiamo, state sempre all'ascolto di Uru, state ascoltando in streaming dal sito wombat.noblogs.org in diretta alle 21.30 tutti i venerdì e in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 15. Vi ricordiamo anche che il prossimo venerdì, un giorno festivo, Uru non andrà in diretta, mentre invece daremo nei giorni successivi, cioè quelli soliti delle repliche, la replica di una puntata precedente. Passiamo a un altro autore senegalese, cantautore, ecco, in questo caso musicista, Ismaïl Lo, che è nato nel Niger da padre senegalese e madre nigeriana, e ancora piccolo si trasferisce in Senegal, la terra d'origine del padre, stabilendosi con la famiglia nella regione di Dakar, e nel 70, dopo la morte del padre, viene mandato a studiare presso la scuola d'arte di Dakar, una scuola prestigiosa. Dal 79 fa parte di un gruppo musicale chiamato Super Diamono, con cui nell'81 incide il suo primo album. È un gruppo che però lascia quasi subito per intraprendere una carriera solista, e la sua musica è uno dei degli esempi più significativi del genere Mbalax. Di Ismaïl Lo vi facciamo ascoltare Tardo Sei. Bayangi nan damay wutal jabar juba waye man may bëgg xaral ba ma ñew jabar jabar jabar yomba na waye bu baax ba jafe na xaral ba ma E ora una notizia che riguarda la spoliazione di una terra a una tribù, a un'etnia molto radicata in Kenya, cioè i Samburu. È importante capire che mentre da un lato una corretta gestione, diciamo così, dell'ambiente naturale, quindi l'istituzione di parchi rispettosa dei soggetti, delle tribù che ci vivono, porta linfa sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista economico a chi su queste terre ci ha sempre vissuto, nello stesso momento non è pensabile fare posto a per fare un parco scacciare, diciamo, chi su quelle terre ci vive da millenni, ecco, da questo punto di vista. E questa notizia riguarda la comunità dei pastori di Samburu, che a cui a novembre è arrivato un conto salato da pagare dopo la chiusura di un processo riguardante l'attribuzione di circa 7.000 ettari di terreno nella regione centrale di Laikipia in Kenya. Nel mese di giugno il Tribunale per la Terra e per l'Ambiente, il Land and Environment Court, ha messo la parola fine a una battaglia legale che aveva contrapposto per circa 8 anni il rappresentante della comunità e l'ex presidente keniano Daniel Arap Moi. I pastori imputano all'ex capo di Stato la vendita nel 2008 per 4 milioni di dollari delle loro terre ancestrali nella regione, appunto, di Laikipia, destinatario al contratto di cessione un progetto di conservazione per la creazione di un parco naturale. L'accusa è quella di avere preso una decisione su terreni ancestrali senza il consenso della comunità. È stato un processo lungo ed è stato accompagnato da denunce di violazione dei diritti umani avanzate appunto alle comunità. Gli sfratti forzati eseguiti dalla polizia e dai rangers, infatti, non sono stati accompagnati da compensazioni, lasciando migliaia di persone senza casa e senza fonti primarie e sostentamento. E organizzazioni come Survival International hanno raccolto testimonianze di violenze e minacce nei confronti della popolazione Samburu, costretta ad abbandonare le terre. Alcune famiglie sono state ricollocate in zone confinanti, altre sono rimaste ai margini della proprietà. Tantissime altre sono state costrette a ricollocarsi da altre parti, magari alimentando ancora più quel processo di inurbazione coatta, diciamo così, che fa di Nairobi una delle città più difficili da un punto di vista sociale. Ma nonostante il risultato del processo, però, la comunità di Samburu non si è arresa. Ha citato in giudizio il direttore dell'agenzia governativa Kenya Wildlife Service e il comandante della polizia locale. L'accusa è quella di non aver rispettato gli ordini del tribunale. Il 31 luglio scorso, infatti, i giudici avevano bloccato gli sfratti, ma i rangers e la polizia avrebbero proseguito con gli spostamenti forzati. Quindi un nuovo capitolo di questo contenzioso tra i pastori Samburu, una comunità tra le più conosciute, tra le più caratteristiche del Kenya, e per il riconoscimento delle loro terre. Adesso torniamo in Senegal con un cantante e chitarrista senegalese, Baba Mal, nato a Podor sul fiume Senegal. Oltre alla chitarra acustica suona anche le percussioni. Baba canta principalmente in Pular ed è il principale promotore delle tradizioni della gente che parla Pular, appunto. Gente che vive su entrambi i lati del fiume Senegal, nell'antico regno senegalese di Futatoro. Ci si aspettava che Baba Amal seguisse suo padre e diventasse un pescatore, ma invece con l'influenza dell'amico di una vita, il chitarrista cieco Mansour Sek, si è dedicato all'apprendimento della musica tradizionale. E in questo brano, infatti, sono insieme Baba Amal e Mansour Sek. Il brano si chiama Lodo. Thank you. E dopo aver ascoltato Baba Mal e Mansur Sek, il prossimo pezzo sarà invece un solista di Mansur Sek, cantante, musicista senegalese ceco, nato a Podor come Baba Mal, di cui vi abbiamo detto che infatti era un amico d'infanzia. Lui è di una famiglia griot, quindi sempre questa propensione a diventare cantanti e musicisti, perché i griot come tradizione familiare hanno proprio questa cosa del cantore, delle tradizioni da narrare la storia orale dell'Africa, quindi molto spesso i cantanti e i musicisti africani vengono da famiglie griot. Appunto, lui insieme a Baba Mal, che abbiamo sentito insieme prima, hanno viaggiato per esplorare le tradizioni musicali in Mauritania, Mali, e hanno pubblicato molti album insieme, ma ognuno di loro ha anche avuto una carriera da solista. Quindi questo è un pezzo di un album che Mansur Sek ha scritto da solo. Il brano è Yelayo, Mansur Sek. Africa e Egita Alma mi sa muri ture ligi no mana fore Dei san Africa e Egita Suleimani balbo pode jamule Oheli mudo hormo Africa e Egita Jam ko janyama jam nati futa chuma je jamaj alma me benderre du fuda uno jara mama mena dinobe ulango jere ulango walu odu de wolde hatani Wadionti wade deche soyoy wadionti wade maman yai ba yoy wadionti wade yela yo ye yela ila è un primo accenno al settore delle energie rinnovabili, una tematica che magari svilupperemo più estesamente in seguito, sempre qui da Uru, da questa trasmissione. E l'ampliamento nel settore delle energie rinnovabili potrebbe offrire una soluzione sostenibile per rispondere alla crescente domanda di elettricità dell'Africa, la cui popolazione e quindi la domanda di elettricità dovrebbe triplicare entro il 2030, mentre in buona parte del continente non esistono ancora reti in grado di trasportare energia elettrica se non in una forma obsoleta e quindi oltremodo inquinante. Una lacuna potrebbe essere compensata dalle nuove tecnologie come il solare o l'eolico, che presentano numerose caratteristiche e ben si adatterebbero a una realtà demografica e soprattutto geografica, ma è quella delle grandi aree rurali africane. E il paragone da fare è quello con i cellulari, la cui mancanza di infrastrutture fisse ha infatti favorito la diffusione dei telefoni cellulari in tutta l'Africa e sotto certi aspetti, anzi sotto molti aspetti, ha evitato ulteriori disastri ambientali, perché come facilmente capibile linee fisse di cavi telefonici lungo le distese, diciamo, delle savane africane sarebbero state da un punto di vista ambientale molto più impattanti che questi apparecchi e servizi offrono, sono arrivati in territori appunto mai raggiunti dalle linee fisse. Qualcosa di simile starebbe cominciando a crescere nel rapporto tra l'energia rinnovabile e quella tradizionale. Tuttavia la strada che l'Africa deve percorrere prima di sviluppare compiutamente e, come dire, sostenibile ambientalmente da questo punto di vista è ancora lunga. Il 49% dell'energia proviene ancora dal carbone, la fonte più inquinante del mondo, e un'altra larga parte è alimentata dal gas, la parte delle rinnovabili di appena il 5%, mentre ampi progetti idroelettrici coprono un altro 20% del fabbisogno africano. Ricordiamo tra l'altro che i progetti idroelettrici sono estremamente impattanti, estremamente dannosi, impattanti da un punto di vista ambientale, ma dannosi anche perché molto spesso per metterli in funzione, per utilizzarli, per fare in modo che ci siano questi grandi bacini da cui poi viene tratta l'energia idroelettrica, molto spesso appunto vengono costrette a forza, sotto certi aspetti, molte popolazioni ad essere spostate. Ecco. Il problema principale nel caso delle risorse nelle energie rinnovabili è che le risorse, la possibilità di utilizzare queste energie rinnovabili non sono diffuse in una maniera, diciamo, uguale in tutta l'Africa. E niente, staremo a vedere da questo punto di vista. Ripromettiamo di sviluppare in seguito, insomma, una forma più estesa a questa tematica, però va ricordato che il problema esiste e che le energie rinnovabili potrebbero dare una mano a evitare l'ulteriore inquinamento che sta diciamo cominciando a soffocare, anche se non tutto il continente, però molti paesi dell'Africa, specialmente quelli più popolosi, come per esempio la Nigeria e il Kenya. Sì, adesso passiamo a Dembo Kunte e Kausu Kuyate, che sono i principali suonatori di cora dell'Africa occidentale. Sono cantanti e soprattutto sono Jalis. Jalis sono praticamente gli equivalenti dei griot, ma di etnia mandinka. Cioè i Jalis sono narratori e guardiani della tradizione orale. Devono preservare la storia delle persone e degli eventi attraverso la loro musica. Le storie e la storia vengono tramandate di generazione in generazione con questo metodo all'interno di famiglie e gruppi di amici, assicurando la sopravvivenza di tali storie per secoli. I Jalis canta le lodi degli amici, mette in guardia i politici dagli errori e ammonisce gli ascoltatori a vivere bene. La loro musica, in poche parole, racchiude la cultura mandinka. Kunte e Kuyate hanno portato la cora a un nuovo livello. Hanno infatti modificato questo strumento per espandere la gamma musicale. Hanno aggiunto, cioè, delle corde di basso extra al classico strumento, la cora, appunto, a 21 corde, simile a un'arpa, per avere un'idea di come è fatto. Di loro ascoltiamo Kairaba Jabi. Badiya kan fong nata miro so ba hayra ba jabiye barka kaw mani yano ma ganya kambaru dimma ba hayra ba jabi muru be kanyalum o ba hayra ba jabi kamma di ba jabi le yawulu kasama sa kanyalum li baharu londo babal modu hanni gum ngidi kare woli bun woli fi yamal qiyamati ila safil mustafa jabi jonnani ali manum wasmun dunya la samba fulo di manga wasmun dunya la ba khair ba ja da jangam ba di manga wasmun dunya la asature di mbaga sumunduni ala ya kubaduma salimina jabi doma lomba kereba jabiti bafure makoto malo harika nyudi ya tela karika nyuma huye la kambia kenyudi ya tela baka iraba ni aje kaya baha iraba kairo le babulu kandabila kampa dole dhala kampa lonade adala fondi sirela ya atina ala fangwe mulu anyila mulu namote kaya baha iraba kairo dama momindo mu kaira de kaira de uja kalla karamado di malu ngani yoro mangkanyang bagera baburu kanyalu Jabi Jundani Lendia dalu betia balia dalu Harjo dalu arjen saya dalu kau Parako dalu parakan saya dalu kau Para bena kuru musi bena ke madu bena fama jadi bena madufa Memkumare ma Jabi Jundani Sì, sì. Si sentiva proprio in questo brano la classica struttura giallista, cioè la struttura griot in questo caso in lingua mandin, che si sentivano le due voci si alternavano e che appunto quasi in una forma parlata con il sottofondo su una base musicale parlavano appunto di storie, di amici e comunque della tradizione orale del popolo mandinche. Domani alle 15 in partenza da piazza Stazione corteo tre pacchi da rispedire al mittente, cioè in questo caso a Palazzo Vecchio, alla Giunta Comunale. I tre pacchi sono il tunnel TAV, l'inceneritore e l'aeroporto, e quindi no TAV, no inceneritore, no aeroporto. Un corteo che animato, ecco, in questo caso con alberi, con chiaramente di cartone, insomma, con tutta una serie di costruzioni, ecco, che staranno a simboleggiare quello che la gente di Firenze, ecco, non vuole, e che verrà collocato, consegnato a chi invece lo vorrebbe e ce lo vorrebbe far subire. Quindi alle ore 15 la partenza di questa manifestazione a Piazza Stazione, ma alle 14.30, anzi alle 14, in partenza alle 14.30 è convocato un primo concentramento a Sesto Fiorentino, proprio anche in questo caso in Piazza Stazione a Sesto Fiorentino, per prendere il treno in cui la gente della Piana arriverà in Piazza Stazione a Firenze, e da lì inizierà la mobilitazione fino in Piazza della Signoria. Radio Wombat in questo caso seguirà con una propria diretta l'iniziativa, e quindi ascoltate Radio Wombat in streaming dalle 15 per sapere notizie sul corteo, ma in questo nel caso non ci poteste andare, ma chiaramente l'invito è a partecipare direttamente in prima persona alla manifestazione. Vi ricordiamo che state ascoltando Uru, la trasmissione che fa ascoltare musica africana, e state ascoltando su wombat.noblogs.org, che è il sito della radio da cui potete scaricare, vi ricordiamo, scaricare o ascoltare tutte le trasmissioni di Wombat andando nel menu a sinistra podcast, da lì potete o ascoltarle o scaricarle e ascoltarle dove vi pare e quando vi pare. Vi ricordiamo che Wombat ha un profilo Twitter, quindi potete seguirlo su Radio Wombat Fi su Twitter, Uru ha anche noi abbiamo un profilo Twitter che è Uru-RW di Radio Wombat. Quindi se vi piace questa trasmissione e pensate sia interessante sapere qualcosa di un continente, quello africano, che non è mai stato mainstream, non si sanno mai le notizie dall'Africa, potete seguirci anche attraverso Twitter. Poi c'è la mail della radio, postawombat@insiberia.net, per comunicare con noi. E vi ricordiamo che Uru, se avete perso una parte della trasmissione, eccetera, potete riascoltarla anche in replica alle 10 la domenica mattina o il lunedì alle 15. Ed ora una sonorità un po' diversa. Prefos è un duo hip hop formatosi a Dakar in Senegal all'inizio degli anni 90, precisamente il 93. È stato originariamente prodotto da un altro gruppo hip hop di Dakar, i Positive Black Soul, ma comunque, seppur sonorità diverse, anche loro innestano queste nuove sonorità su una base comunque di musica tradizionale, di musica delle proprie radici. E quindi cantano in Wolof, francese e inglese, e comunque utilizzano strumenti tradizionali senegalesi come la kora, per esempio, fa parte della loro strumentazione. È stato, tra l'altro, pur essendo un duo, è stato, almeno inizialmente, è stato uno dei primi gruppi di rap africani a includere anche una cantante nella loro formazione, cioè Sista Joyce. Un'altra caratteristica è che autoproducono i propri video musicali con risorse molto scarse, ecco, da questo punto di vista, e comunque simpatici, girando in rete, ecco, li potete trovare. Di loro ci sentiamo uno dei pezzi più conosciuti o comunque più significativi, e cioè Jalgati, sono Pifos. Time, I grab the mic, so give me your ear, let me take a bite. Like that's mic, explode like a dynamite. I be that girl that I wear bitches. You gonna grab your dick tight, I'm a damn right. Hip hop into my life like a daylight, and I don't lie. Boy, you place ho, that nigga better act right. Make way for the sub of the political under the spotlight. Fuck with me, suicide, yeah nigga know I be outside. For the rhyme, it's a crime, it's a genocide. Say fuck with me, suicide, yeah nigga know I be outside. For the rhyme, it's a crime, it's a genocide. And I see, and I see. People who are fight for the M.I.C. But the better bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. She's young and I got you. She's young and I got you. She's young and I got you. Could you never get a door? I'll mass it. You're going to say, Cartagin, but I'll keep you more. She's young and I got you. She's young and I got you. She's young and I got you. Could you never get a door? I'll mass it. You're going to say, Cartagin, but I'll keep you more. Jamak salama peso loco, tem jegi du loco, kapu yango te hip hop, fagaru cha. Peace in the world, no jagati, hip hop, people kuli yakati. You call me a gold cock, 6-1 man, I said it, yagano ku yakati. Peace in the walk, peace in the walk, peace in the walk. Peace in the hip hop, peace in the hip hop, peace. Hip hop, Delphi, Delphi. Banyo di jenga ti, cool cock, sis di jogo ti, jegi ti, ku deglu tegu ti. Ain't me like Kenny, me ni mighty mo, no people act like animal. Them bats in done for the payroll, see, they wanna play gangsta role. We making me a gangsta word, but shit in the way they roll, oh no, no, oh, oh, no. I don't wanna die like Tupac, so I just wanna make my money on go. Just spreading love and happiness, y'all welcome me if you wanna flow. I know you like the way I flow, the way I show you I'm real raw. I eat ya niggas say, give me some more, give me some more, give me some more. MC's young and Delgati, MC's young and Delgati, MC's young and Mega del gatti, cucci me bugana go, al massi, gioco sei cartoni, bugana la chimo. MC is young and del gatti, hey, hey. MC is young and del gatti, hey, hey, hey. MC is young and del gatti, cucci me bugana go, al massi, gioco sei cartoni, bugana la chimo. Times do I have to tell ya it's my time to shine. Selling my rhymes like a drug in the street. I'm the for them to hang. I bring the pain like metal man. Home and the man with a mass plan. Don't move. It just began. Let the breeze turn to hurricane. This rap game need a oxygen. Damn, yeah, must be a silly man. Wanna fuck with a gun man? Wanna see my name on your wall of fame? I'm okay with a cane and you bring your new bounce. I'm okay with a cane and you bring your new daddy bounce. I'm okay with a fake and you bring your new bounce. I'm okay with a fake and you bring your new daddy bounce. I'm okay with a cane and you bring your new daddy bounce. Sees young little gatti, could you never get a go? I'll massy, just as I can't take him, but I keep on. E questo era l'ultimo pezzo di questa 37esima puntata. Vi ricordiamo ancora che venerdì prossimo è festa e quindi ci prendiamo una settimana di pausa. Potete ritrovarci la settimana successiva in diretta il venerdì sempre alle 21.30. Altrimenti la domenica prossima e lunedì prossimo potete ascoltare una replica delle passate puntate. Vi aspettiamo. Ciao, comunque domenica questa e lunedì prossimo questa qui la replica di questa puntata, mentre invece la domenica successiva, cioè il 10 di dicembre, lunedì 11 dicembre, la replica della 11esima puntata di Uru, che è circa febbraio dell'anno scorso. Bene, ci sentiamo tra 15 giorni in diretta. Ciao, ciao a tutte.